Il terzo anello, ad alta voce, I viceré, di Federico De Roberto. La stanchezza del viaggio, lo stordimento dell'arrivo, spiegavano naturalmente la poca loquacità di Consalvo in quelle prime ore. Infatti la sera, dopo aver mandato in camera del padre, della sorella e della madrigna una quantità di regali, egli ci calò moltissimo, riferì una quantità di impressioni, narrò certi aneddoti comici su Baldassarre, che all'estero, sconoscendo le lingue, s'era spesso smarrito, aveva attaccato lite con gente alla quale diceva male parole siciliane. Con Benedetto Giulente, specialmente, o con la gente più o meno mescolata nelle cose pubbliche, teneva certi discorsi stupefacenti in bocca sua. Sull'ordinamento delle guardie in città, sulla manutenzione dei giardini, intorno ai sistemi di innaffiamento delle vie o di illuminazione dei teatri. Perché diamine s'occupava di quelle cose? Per far sapere che era stato fuori via? Ma no, signore! Non solo teneva discorsi diversi dagli usati, mutava anche sistema di vita. Visti una volta gli antichi compagni di Bagordo, non li aveva più cercati, anzi, li evitava. La passione dei cavalli pareva gli fosse interamente finita. Non scendeva più nelle stalle, non teneva conversazione coi cocchieri. Non più donne, non più giuoco. Passava il suo tempo chiuso nella propria stanza, dove non si sapeva che diamine ordisse. Quando andava fuori, faceva frequenti visite allo zio Duca, col quale parlava di cose serie, o si vedeva in compagnia di gente che prima soleva evitare come la peste. Parrucconi, politicanti del gabinetto di lettura, sorci di farmacie, persone occupanti pubbliche cariche, tutto il codazzo del deputato. Certi giorni Consalvo non veniva a tavola. Al cameriere che andava a chiamarlo rispondeva dietro l'uscio che aveva da fare. Studiava economia politica, diritto costituzionale, scienza dell'amministrazione. La gente che non sapeva di che cosa s'occupasse, ma che vedeva il radicale mutamento operatosi in lui, lo attribuiva al lungo viaggio e al senno che tutti i giovani, o presto o tardi, hanno pure da mettere. E il viaggio, infatti, era stato l'origine della conversione del principino, la sua grande lezione. La lotta col padre lo aveva disgustato della sua casa e anche del suo paese, dove la mancanza di quattrini e la pesante autorità paterna non gli consentivano di fare tutto ciò che voleva. Pertanto, egli aveva accettato con gioia di andar via, di girare un poco il mondo. Nella sua testa avveniva una rivoluzione. Soffrendo realmente nell'orgoglio, nella vanità di viceré, quando andava a fare qualche visita in certi palazzi grandi quattro volte la vita, nei quali invece di botteghe da affittare c'erano gallerie grandi quanto musei, con dentro tesori d'arte, egli smise di frequentare le sue conoscenze e rinunziò a farne di nuove. In paese straniero la maggior ricchezza e l'autorità della gente della sua casta non lo feriva tanto, ma un altro impaccio lo aspettava lì. Col suo povero e mal digerito francese si sentì come fuori del mondo a Vienna, a Berlino, a Londra. A Parigi fece sorridere come in Italia Baldassarre. Ma frattanto la Sicilia, il suo paese nativo, la sua casa, dove la considerazione ed il primato ad un tempo lo aspettavano, erano divenute per lui sempre più piccoli e meschini. Come rassegnarsi a tornare laggiù dopo aver visto la gran vita delle grandi città? Grande laggiù e anche dappertutto, per uno che non avesse voglie smodate, il patrimonio del principe di Francalanza era per Consalvo poco più che la mediocrità a Roma. Le persone che attraversavano il caffè lo salutavano e egli rispondeva loro interrompendosi con «Cavaliere!» o «Caro commendatore!». Alle frutta aveva una piccola corte d'intorno alla quale parlava con grande animazione di Roma, di quel che bisognava fare per renderla degna dei suoi destini, per affermarne l'italianità e per tenere a segno il Vaticano. Deputato, ministro, eccellenza, presidente del Consiglio, viceré per davvero, che cosa occorreva per ottenere quei posti? La forza della memoria, la facilità della parola, la sicurezza dinanzi alla folla che erano mancate al duca e lo avevano tormentato per tutta la vita accrescendo la sua miseria intellettuale, Consalvo le possedeva. Thank you. Salvo aveva promesso alla zia di baciare, oltre che le mani a Francesco II, anche i piedi al Santo Padre. Egli soppresse questa seconda visita, poiché gli conveniva mutare non solo le abitudini, ma anche le idee. La fama della sua conversione si diffuse subito. Stupiti, sospettosi o rallegrati, i parenti, gli antichi amici, gli stessi servi, dissero che stava tutto il giorno a tavolino. Associatosi al gabinetto di lettura, lui, il fondatore del club aristocratico, vi andava a discutere di politica ed amministrazione, a criticare e lodare uomini e cose, a nominare autori e citare opere. Una sera che Giulente e il duca, in casa di quest'ultimo, discutevano a proposito dei dazi di consumo, Consalvo disse la sua, con grande sfoggio di erudizione. Uscendo di lì, Benedetto esclamò, con tono scherzoso di protezione: «Ti faremo consigliere comunale, appena avrai l'età!» «Perché? No!» esclamò egli. «E poi, come si fa?» «Perché? Per avere un posto nella rappresentanza del tuo paese. Quanto al modo, è semplicissimo!» Innanzitutto lo presentò al circolo nazionale. Alcuni soci fecero qualche difficoltà. Era degli Uzeda liberali o dei retrivi? Più d'uno assicurò che era borbonico come la zia Ferdinanda, che anzi a Parigi era andato a far visita a Francesco II. Ma Giulente si portò garante dei liberi sensi del nipote. All'ex re aveva fatto, era vero, una visita, ma costretto dai parenti, una visita di pura forma del resto, che non lo impegnava a niente. Don Blasco, invece, liberale di data ormai quasi antica, approvò la conversione del nipote, il quale, lasciando che ciascuno di quei pazzi dicesse la sua, fece il suo esordio al circolo, una sera che l'assemblea discuteva intorno ai trattati di commercio. Nella sala angusta la gente era stipata e le seggiole si toccavano. Per evitare contatti, Consalvo aveva tirato la sua fuori dalla fila, distruggendone l'ordine, e mordendosi i baffetti stava a sentire con aria di grave attenzione. Ma quando il presidente annunziò: «Se nessuno domanda la parola, metto ai voti le conclusioni della commissione», il principino s'alzò. Domando la parola. Immediatamente si fece un profondo silenzio e tutti gli sguardi si diressero su Consalvo. Signori, io vi debbo innanzitutto chieder venia dell'ardimento di cui potrete accusarmi vedendomi, ultimo arrivato fra voi, osare di prendere la parola intorno a una grave materia, oggetto di così accurato esame da parte di soci ai quali, volendo, ma non potendo dare il nome di colleghi, debbo e voglio dare quello di maestri. Il laborioso periodo fu detto con tanta sicurezza, uscì così filato, era così abile e opportuno, solleticava tanto l'amor proprio dei precedenti oratori, riusciva così inaspettato sulla bocca d'un giovanotto conosciuto fino a quel momento solo per le sue prodigalità e i suoi vizi, che molti mormorarono: «Bravo! Bene!» Egli era per la libertà che è la più grande conquista dei nostri tempi. I vantaggi del libero regime erano infiniti perché, come dice il celebre Adamo Smith nella sua grande opera, e infatti opina anche il grande Proudhon, ma quantunque il famoso Bastiat non ammetta, pure la scuola inglese è del parere... Salve d'applausi interrompevano tratto tratto quel discorso che tutti credevano improvvisato, con tanta disinvoltura era detto. Una notte, mentre a palazzo tutti dormivano tranne Consalvo curvo sui volumi di Spencer, fu picchiato con grande fracasso al portone. Garino, il marito della sigaraia, chiamava il principe a rotta di collo perché a Don Blasco era venuto un accidente. Gli altri parenti non sapevano ancora nulla e cominciarono ad arrivare più tardi, uno dopo l'altro. Entravano un momento nella camera del moribondo e poi passavano nella stanza attigua, girellonando, cercando il momento di prendere a parte il principe per dirgli in un orecchio: «C'è testamento?» «Non so, non credo», rispondeva il principe. «Chi pensa a queste cose per ora?» Garino affacciassi sull'uscio, annunziando: «Il signore l'ha chiamato a sé». Tutti entrarono nella camera del morto. Era immobile, stecchito, con gli occhi chiusi, con le tempie butterate dai morsi delle mignatte. Le ragazze piangevano come due fontane e Lucrezia pareva avesse perduto il suo secondo padre. Ma i pianti e le preci a poco cessarono. E allora, asciugatisi gli occhi, Lucrezia disse tranquillamente: «Adesso che lo zio è in paradiso, potremo vedere se c'è testamento». Nel silenzio generale, il principe, come capo della casa, fece un gesto di consenso. Ma donna Lucia, che finiva d'accendere le candele, si voltò e disse: «C'è testamento, eccellenza. La Sant'Anima, per la sua bontà, me lo diede a serbare. Vado a prenderlo subito». Si potevano udir volare le mosche mentre la donna consegnava al principe una busta aperta e questi, per deferenza, la passava allo zio Duca. Il duca diede un'occhiata al foglio dove c'erano poche righe di scritto e, senza leggere, annunziando il contenuto dei brevi periodi a mano che li scorreva, disse: «Erede universale Giacomo, esecutore testamentario, un legato di 200 onze l'anno a Don Matteo Garino». «Nient'altro e nient'altro?» domandarono tutti intorno. «Non c'è altro. Questo testamento è falso». Tutti si voltarono. Il principe, con estremo stupore, esclamò: «Come falso? Ho detto che è falso», ripeté Lucrezia, dando uno spintone a suo marito, che voleva leggere anche lui il foglio. «Questa non è la scrittura dello zio. La scrittura dello zio io la conosco». «T'inganni», disse il principe freddamente. «È la scrittura dello zio». Degli altri nessuno espresse un'opinione. Con tono di fine ironia, Lucrezia replicò: «Allora vorrei sapere quando l'ha scritto. Stanotte? C'è ancora la sabbia attaccata?» La sigaraia intervenne: «Eccellenza, sua paternità scrisse il testamento ieri l'altro, perché, poveretto, il cuore gli parlava e gli diceva che la sua fine era prossima». «E perché non ne avete detto nulla?» domandò allora donna Ferdinanda. «Eccellenza, io ne fui avvertito», affermò il principe. «Ma a noi dicesti che non credevi che ci fosse testamento. Fui avvertito che si sentiva poco bene, non che avesse fatto testamento». E la lite scoppiò più feroce di tutte le precedenti. Donna Ferdinanda non scherzava all'idea che le avevano tolto la sua parte della successione. Lucrezia era implacabile per la rivincita da prendere su Graziella, che l'aveva trattata male, e anche un po' perché sperava sull'eredità dello zio come un mezzo di mettere in piano l'amministrazione della propria casa. Da che la teneva lei, non c'erano quattrini che bastassero. Il marchese Bonaccione voleva evitare lo scandalo, ma Chiara, per fare il contrario di ciò che egli voleva, si schierò contro Giacomo con la zia. Donna Ferdinanda spedì la prima carta bollata, in cui impugnava il testamento e domandava una perizia al tribunale. Il principe si strinse nelle spalle ricevendola. Per lui niente era più doloroso delle liti in famiglia, e a tutte le persone che incontrava esprimeva il suo profondo rammarico per la condotta della zia e delle sorelle. Ma che poteva farci? Poteva rinunziare all'eredità? Erano esse le ostinate, le prepotenti e le pazze. In casa, però, egli era divenuto più irascibile di prima. Contegnoso dinanzi alle persone, sfogava dinanzi alla moglie, ai figli e ai servi la contrarietà e la credine. Teresa veramente non gli dava nessun appiglio, sempre docile e obbediente. La principessa, anche lei, chinava il capo al soffio della bufera. Ma egli se la prendeva tutti i momenti col figliuolo, attribuendo all'apostasia politica di costui l'inasprimento di donna Ferdinanda. Thank you. Teresa pareva non udire né questi né altri discorsi e sognare tutto di ad occhi aperti. Divorava i pochi libri di versi e romanzi che la principessa le consentiva di leggere. Dipingeva quadretti dove si vedevano castelli merlati, sorgenti in mezzo a laghi di cobalto, trovatori con la chitarra ad armacollo, o più spesso castellani inginocchiate ed oranti, madonne col divino figliuolo tra le braccia. Adesso la conducevano spesso al teatro, d'estate alla commedia, d'inverno al melodramma. Ed ella non sapeva veramente dire quale dei due spettacoli le piacesse più. E la stessa componeva di tanto in tanto un valzer, una mazurka, oppure notturni, sinfonie, fantasie senza parola che portavano per titolo «Vorrei», «Incanti», «Storia mesta», «Ognor». E conoscenze, parenti, amici, tutti andavano invisibili o udendole. Il maestro venne a palazzo in compagnia del lavapiatti. Era un giovane così bello che pareva San Michele Arcangelo, bruno di capelli, biondo di baffi, roseo di carnagione. La principessa, appena lo vide, cominciò a torcere il muso e a far segni a Don Cono per dirgli che non s'aspettava da lui quella parte. Condurle in casa un tipo simile. Storia mesta fu eseguita una domenica alla Marina dalla musica del reggimento. Il concerto era veramente uno dei migliori e la composizione di Teresa appare un vero pezzo d'opera, con certi cantabili affidati ad un corno inglese dolce come una voce umana e certi effetti d'organo da far credere alla gente d'essere a San Nicola, dinanzi allo strumento di Donato del Piano. La conoscenza del maestro del reggimento, le sue lodi, l'esecuzione della musica avevano scatenato una tempesta in lei. Ma quando il giovane, per divieto della principessa, non tornò più a palazzo, ella non pensò più a lui. Don Cono, incaponito nella sua idea, incoraggiato dal lieto successo, parlò un giorno all'assessore dei pubblici spettacoli perché desse ordine al direttore della musica cittadina di concertare anche lui le composizioni della principessina. Questo assessore degli spettacoli era Giuliano Biancavilla, figliuolo di Don Antonio e della Bivona, un giovanotto sulla trentina, bruno di carnagione e nero di capelli come un arabo, ma fine, elegante e con occhi dolcissimi. Al teatro la guardava fisso, senza lasciarla un istante. Al passeggio la sua carrozza seguiva sempre quella degli Uzeda. Perfino in chiesa si faceva trovare sul loro passaggio. Appena accortasi di quella commedia, la principessa riferì ogni cosa al principe, il quale lasciò cadere tre sole parole. «È pazzo, poveretto!» In breve non si parlò d'altro in città. Gliela daranno? Non gliela daranno? Ma tutti riconoscevano che Biancavilla aveva posto gli occhi troppo in alto. Baldassarre, specialmente, non sapeva darsi pace. Egli voleva naturalmente che la principessina sposasse uno fatto per lei, un barone a dir poco, ricco da mantenerla come una regina. Eppure aspettando che il principe facesse la sua scelta, in cuor suo aveva destinato alla padroncina il cugino Don Giovannino. Questo, frattanto, era per lui certo, che la padroncina non si sarebbe neppure accorta dell'esistenza di Biancavilla. Invece, alla lunga, gli sguardi del giovane avevano attirato quelli di lei, quasi per virtù magnetica, e li facevano adesso affrettare e mancare tutti in una volta il respiro. In collegio, ella aveva fatto talvolta qualche verso, per le feste delle maestre, per gli onomastici delle amiche. Voleva adesso scriverne per lui, metterli in musica unicamente per lui. «Se fossi il pallido raggio di luna, che a notte bruna ti passa di fronte, se fossi il zeffiro, la lieve brezza, che t'accarezza». Con una gran stretta al cuore, Teresa s'accorse dell'opposizione della madre. Pianse a lungo, nascondendo le proprie lacrime, prevedendo che tutte le sue speranze si sarebbero infrante se i suoi non volevano. Giusto in quel torno, perduta ogni speranza, Giuliano Biancavilla partì. Chi diceva che sarebbe andato a Roma, chi a Parigi, chi aggiungeva che non sarebbe mai più tornato a casa, senza riguardo al dolore dei suoi. Thank you.